Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da ottobre a dicembre del 1822. La Santa Alleanza avverso un nuovo intervento, pronto l'attacco alla Spagna. Repressione antiliberale anche nel Ducato di Modena, decapitato un sacerdote. Per molti stati vaccinarsi è pericoloso, ma non in Vaticano, il Papa invita i suoi sudditi a farlo. È morto lo scultore Antonio Canova, protagonista del neoclassicismo, adorato da Napoleone. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura il congresso che a Verona ha dato il via libera all'intervento in Spagna. Alla fine il congresso di Verona si è concluso come la Francia voleva e a Luigi XVIII la Santa Alleanza ha affidato il compito di rimettere le cose a posto in Spagna, di ripristinare cioè quell'ordine della restaurazione che non ammette né liberali né costituzioni. A Verona dal 9 al 14 ottobre c'erano le cinque potenze, con Russia e Austria rappresentate direttamente dallo zar e dall'imperatore Francesco I. I veri protagonisti sono stati però i ministri francesi Montmorency Laval e Chateaubriand, l'austriaco Metternich e il duca di Wellington per l'Inghilterra. Un passo indietro i regnanti italiani, tutti tranne il Papa in posizione di comprensibile minorità rispetto all'Austria. Si è discusso del commercio degli schiavi neri, della pirateria in Atlantico, della situazione italiana, ma il cuore del confronto è stata la Spagna e alla fine, nonostante la fiera opposizione inglese che non vuole vedere la Francia tornare protagonista, è stata approvata la proposta transalpina di una spedizione militare contro i liberali iberici. In fondo a chiedere segretamente l'intervento è stato lo stesso sovrano spagnolo. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. La repressione contro i liberali tocca intanto anche il Ducato di Modena dopo la detenzione nel forte di Rubiera, dove sembra che la tortura sia stata la norma. Sono state condannate 47 persone, di cui 9 alla pena di morte. L'unica condanna capitale che è stata eseguita è quella contro il sacerdote Giuseppe Andreoli, nonostante la richiesta di grazia arrivata dal vescovo di Reggio Emilia Ficarelli. Andreoli è stato decapitato. Molti stati giudicano il vaccino pericoloso, ma Pio VII ha chiesto invece ai suoi sudditi, appunto, di vaccinarsi contro il vaiolo. La decisione pontificia mette lo Stato del Centro Italia all'avanguardia. La pratica è iniziata a Recanati, dove il gonfaloniere locale, Monaldo Leopardi, ha fatto prima vaccinare i figli, dal maggiore Giacomo al minore Pier Francesco, e ha poi reso obbligatoria la pratica per la città. Autore di opere memorabili come Amore Psiche, Le Tre Grazie o Perseo e Il Minotauro, è scomparso a 65 anni lo scultore Antonio Canova. Il ritratto di Marco Carminati. Si è spento il nuovo Fidia, colui che ha riportato l'arte dei greci e dei romani alla nuova vita. Lo stile che oggi noi abbiamo, il neoclassico, lo dobbiamo a lui. Canova era nato nella Repubblica di Venezia, a Possagno, un piccolo paese a 80 chilometri dalla capitale della Serenissima, e si era formato in questa città. Pensate, ha cominciato a scolpire le statue nel burro ed era diventato il più grande scultore in marmo. Oggi lo piangono soprattutto i papi a Roma, perché in questa città ha scolpito statue, tombe e ritratti e soprattutto ha recuperato tutte le antichità che l'invasore Napoleone aveva portato via dalla bella città di Roma. Lo piangerebbe anche Napoleone se fosse vivo, perché ha lasciato ritratti straordinari della famiglia di Napoleone, dell'imperatore e della sua sorella, soprattutto Paolina. E lo piangeranno anche i posteri, perché le sue statue sono arrivate al vertice della sublime bellezza. C'è rimasto il ritratto di Paolina Borghese, che il principe Borghese tiene chiuso in casa sua, e soprattutto ci sono rimaste Le Tre Grazie, che oggi vediamo a casa della vedova di Napoleone. Chissà, forse in futuro vedremo in un grande museo. È tutto sul nostro sito, potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, potete visitare il nostro blog o la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento, fatelo prendendo penna e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.